se vogliamo far partire, e io sono d'accordo, una nuova stagione di supporto alla qualità dei sistemi di welfare, in particolar modo anche del protagonismo pubblico, e io credo che ne avremmo bisogno, è innanzitutto nella volontà politica e nelle relative scelte a livello centrale che parte tutto questo. Se no, poi succede una cosa a livello territoriale. Vi faccio un esempio concreto: costi dell'energia, dove noi adesso siamo mobilitati. Dico noi, centinaia di comuni dell'Emilia Romagna, adesso non necessariamente Reggio, ma noi cos'è che dobbiamo fare nei prossimi giorni? Dobbiamo chiudere i bilanci. Abbiamo delle impennate di costi Covid e di costi per la crisi energetica che fanno paura, e per cui i comuni devono chiudere questi bilanci. Qualcuno cosa farà? Qualcuno taglia qualche servizio ed esternalizza un po', magari cerca di farlo sotto traccia che non si veda troppo. Qualche d'un altro mette in mano la pressione fiscale, e voi sapete benissimo quali sono le limitatissime e talvolta anche inique leve di gestione delle entrate che sono in capo ai comuni. Io non toccherò l'IRPEF, ve lo dico in anticipo, però oggi non sono in grado di dire se riesco a chiudere il bilancio del comune di Reggio Emilia senza mettere mano alla politica delle entrate. Perché? Perché prioritariamente per me la centralità dei servizi alla persona, educazione, welfare e cultura viene prima di ogni altra cosa, e quindi noi andremo dritti in quella direzione, a meno che non ci sia da parte dello Stato centrale una capacità di venirci complessivamente incontro e di aiutarci in questa situazione che rischia di essere un po' paradossale. Cioè, noi stiamo ricevendo, io sto ricevendo qualcosa come 8-10 milioni di euro a settimana nel partecipare ai fondi PNRR, che metto lì nella programmazione. Nell'arco dell'ultimo mese abbiamo intercettato almeno 50 milioni di euro, e poi contemporaneamente ci troviamo la parte corrente del bilancio che rischia di saltare. Io credo che lì ci sia un bisogno anche di iniziativa collettiva, cioè proprio di mobilitazione di tutto il sistema degli attori, non soltanto dei comuni. È una partita che ci riguarda tutti, perché badate che i costi energetici non toccano soltanto, lo sappiamo, le utenze dei comuni, toccano quelle delle famiglie, toccano quelle delle imprese, cioè tocca il sistema Italia.